La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю я. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, dopo 10 anni di matrimonio me ne voglio andare e basta. Ho un altro e non me la sento più di queste bugie. Lui ha capito che lo tradisco e fa finta di niente per non perdermi, ma io non sopporto più di dormire con lui. Lui mi ha deluso. Forse è stato anche sfortunato, gli è andato tutto male nel lavoro, nella vita. Ma ho sposato un ragazzo pieno di slanci e adesso mi ritrovo con un uomo vinto, senza più energie né idee. È una vita troppo triste. Non siamo riusciti ad avere un figlio. Anche questo ci ha intristito. Perché esito? Non so come spiegarti lo strazio che mi lega a lui. Quel po' di amore che è rimasto da parte mia è fatto di pietà. Quando decido di andare via, mi prende una tremenda pietà per lui. So che quando lo lascerò me lo porterò dietro e già mi sento soffocare di tristezza. La felicità che sento stando con l'altro non basta a farmi stare meglio. Vanna. Sai, Vanna, non c'è una parola mia e di nessun altro che possa fare qualcosa per te, e neanche per quell'uomo buono e triste che ti tiene accanto. Sicuramente prima o poi lo lasci, è un fatto, ma il legame con lui non sarà mai sciolto del tutto, perché c'è questa frase chiave nella tua lettera: lo strazio che provo per lui. E penso anche per te stessa, come ogni volta che si spreca un miracolo, perché all'inizio vi siete amati. Ti leggo un racconto di Antonio Pennacchi, l'autore di quel libro immenso che è Canale Mussolini. È uscito da poco un suo libro di racconti che si intitola Show 150, un libro bellissimo, come sempre, perché questo cantore epico è anche un grande cantore dell'intimità e dell'amore coniugale. Ne avevamo parlato a proposito di quella storia che sta in Canale Mussolini, quando Pericle mette incinta Armida e dice: io ho generato in te tutti i miei figli delle mie generazioni. E quando lei rimarrà incinta di un altro, lei insisterà che è il figlio di Pericle, perché lei è stata fecondata per sempre. Qui ci troviamo invece in una storia moderna molto realistica. Si intitola Occhi Verdi ed è la storia di due sposi. Lei, d'un tratto, ha lasciato lui e i figli e se n'è andata al nord a fare la puttana. Lui la cerca, fa 500 chilometri e la vede scendere dalla macchina di un cliente. E il guidatore sorridente salutava con la mano, come per dire: ci rivediamo, Maria, che ancora sorride, mentre infila i soldi dentro la borsetta. Adesso si accorta di lui, cioè del marito. E come si accorge, sorride di più. Sorridono gli occhi verdi, sorridono le guance e i capelli neri, e le scarpette d'oro col tacco altissimo, e le calze a rete, e la minigonna nera di pelle, attillata, proprio come una seconda pelle. E quando sorride, non dimostra davvero i suoi 40 anni. Qui ci aspetteremo tutti che lui dice: brutta puttana. Invece no. Si abbracciano. Si stringono forte le spalle. Gli occhi verdi si sono inumiditi. Torna a casa. Le dice sommessamente lui, con le labbra vicino all'orecchio. Lei si scosta. Ne parliamo dopo, dice con dolcezza. Ed è con dolcezza che lo guarda. Ma gli occhi verdi non sono più umidi. Camminano a fianco. Vanno verso la città. A volte si prendono per mano. A volte sotto braccio. Ma più spesso camminano vicini. E si guardano ancora più spesso. Parole poche, non servono. Una sola racchiude i discorsi. I figli? Bene. Il lavoro? Pure. La casa? Va. E ognuno per la strada pensa ai figli, al lavoro, alla casa. Ma ognuno, evidentemente, li pensa con pensiero diverso. Arrivano in città, prendono il tram. Nella folla restano vicini. Si toccano per mano. È lei che indica la fermata. Arrivano alla pensione. Salgono. Lei saluta tutti, sorridendo, e tutti la salutano, sorridendo. Lui li guarda, i negri, i marocchini, il vecchio bavoso che gira in pigiama, il tossico in canottiera, un paio di colleghe col completino leopardato, pronte per l'uscita, la padrona. Con tutti lui abbozza un saluto, per naturale educazione. Ma ognuno di quei sorrisi è una ferita. Ha le lacrime in gola, l'angoscia nello stomaco, la voglia di tornare indietro, la voglia di non averla mai trovata. In camera si mettono sul letto. lettino singolo, senza spogliarsi. Solo le scarpe si sono tolti e il copriletto addosso. Si riabbracciano stretti, di fianco, rannicchiati e incollati l'uno all'altra, lei col viso verso la finestra e lui dietro di lei, a tenerla stretta. Passano le ore, a volte dormendo, a volte svegli, ora l'uno, ora l'altra, sempre immobili, abbracciati in quel modo. O per meglio dire, è lui che abbraccia lei. Qualche volta, pian piano, gli occhi verdi hanno pianto. Hanno pianto per sé, ma soprattutto per lui. Hanno pianto per la casa e per i figli, per l'amore e per l'angoscia. E il pensiero di tutti quegli anni. Casa e mercato, casa e botteghe, piatti, cucina da rassettare, letti da rifare. Ad aspettare solo che chi è fuori torni finalmente a casa e poi servire e accudire, con tutto calibrato, ore, giorni, minuti e secondi. Pure qualche scampolo di sesso. Poi hanno fatto l'amore, dolcemente, come avevano imparato in tanti anni, a casa. E alla fine si sono baciati qualche isolata e rispettiva lacrima. Si sono rimessi come prima, abbracciati stretti di fianco, in uno solo, ma a dormire e pensare, ognuno per suo conto. Lui alla vita andata in pezzi, alla casa incasinata, ai figli sbalestrati, alle sue abitudini sovvertite, ma soprattutto alla mancanza di lei, al bisogno vitale di lei. Non era più vita ormai. Pensava di non sapere più nemmeno respirare senza di lei, senza che lei gli desse il via e gli facesse vedere, volta per volta, come si fa. E allora, a notte inoltrata, col riflesso dei lampioni che stampavano la serranda sulla parete di fronte, ha trovato la forza di pregare «Torna a casa». Gli occhi verdi hanno ricominciato a piangere, in silenzio, senza singulti o rumore, per ore. Lui, per quelle ore, si è chiesto se non avesse sentito, se stesse dormendo, e ha aspettato. Poi ha ridetto, ma aveva quasi perso ogni speranza. «Torna a casa. Torniamo a tutto come era prima». Lei si è asciugata gli occhi e ha detto solo «No, sto meglio qua». E lui si è abbandonato ai singhiozzi. Amaro cora, perché non sa che il gatto fa. Si ha da tremare per me o si ha da fermare. La guardiana del faro. Messaggio nella bottiglia in arrivo per la guardiana del faro. Cara Barbara, ero convinta di non volermi sposare. Poi sono caduta nella trappola di un amore felice e ben felice di caderci. Lui più giovane, stimolato a fare carriera, riuscendoci perfettamente, figli desiderati e amati. Ma poi lui cambia e io, dopo molti tentativi falliti, mi chiudo nel silenzio e nella routine. Poi arriva l'altro, per caso, sposato con figli. Scoppia la passione e l'amore straripante, meraviglioso. Non amo più mio marito, ma cerco di tenere in piedi qualcosa che non voglio più, solo per i bambini. Il mio dolce amante ha gli stessi problemi e perplessità. Io dico che bisogna stare insieme perché ci si ama e non solo per i figli, che comunque percepiscono i cambiamenti. Ma continuo a vivere nella menzogna. Non sono pentita di aver tradito mio marito. Forse quello che manca è solo il coraggio di dare un taglio netto alla vita di adesso e camminare da sola con i miei figli. Non posso rinunciare all'uomo che amo e che mi ha dato anche sessualmente delle gioie mai provate. Il sesso insieme è scoppiettante, stupendo, selvaggio, pieno d'amore. Mentre ora, quando sto con mio marito, odio sentirmelo addosso. Ci sto male. Forse ciò che mi fa restare con lui è solo la consapevolezza, ma non la certezza, che il mio amante non lascerebbe mai la famiglia e quindi io resterei sola, anche se con i miei adorabili bambini. A volte spero che sia mio marito a lasciarmi, che si innamori di un'altra. Cavolo, che vigliacca. A volte mi sento cattiva, anche se le colpe non sono solo mie. Ho amato mio marito profondamente e prima di quell'incontro non avevo mai pensato di poterlo tradire. Sono proprio così malvagia? Che fare? Giovanna. Ma che fare? Io penso che il più è stato fatto. Ti sei innamorata di un altro. Non invaghita o incapricciata, proprio una passione robusta, esclusiva, che vuole essere vissuta e che consente a malapena le bugiole del giorno, mangiare insieme, compiacersi dei figli, ma non quelle notturne, quando il corpo di tuo marito è irreparabilmente estraneo e sgradito. Io poi ho molti dubbi che anche nelle piccole cose tu riesca davvero a ingannarlo. Mica solo i bambini percepiscono la finzione, pure i grandi, specie se amano. E sai che c'è, Giovanna? Mi fanno una gran pena questi mariti traditi. Non tanto perché traditi, ma perché non contano niente. Magari per colpa loro, perché si impigriscono, perché diventano dei ciabattoni del sentimento. Però salta agli occhi che qui i poli del dramma siete tu, l'amante, i figli. Il marito è una figura marginale, da lasciare indietro, come dici tu, per camminare con i miei bambini. Povero disgraziato, ma avrà pure una personalità o avrà comunque dei sentimenti. Il momento peggiore non sarà quando lo lascerai, ma adesso. Adesso che resti con lui, parole tue, perché l'altro non lascia sua moglie. Io non ti voglio fare un processo. Io sono sempre dalla parte di chi desidera. E so che una volta riconosciuto l'amore, riconosciuto il Dio, non resta che servirlo. Sento la tua sofferenza, sento il tormento di fare una parte, la gelosia anche verso la moglie dell'altro, la tortura di vivere separati, i dubbi. Ma vedo anche la bruttezza di una vita senza dignità. Sei una donna che lavora. Quando eravamo mantenute dai maschi, allora sì che era una tragedia. Ma adesso, a meno che tu non sia come milioni di altri sposati che si innamorano, si straziano, giocano agli amanti, accarezzano l'idea della libertà, che vuol dire anche restituirla a chi non si ama più, e poi resta una cuccia tutta la vita, perché alla fine il matrimonio è il grande idolo al quale sacrificare ogni verità e passione. Altre volte ho parlato del moglione, ovvero il mammone della moglie, quello che ama sempre un'altra, è innamorato sempre fuori di casa, ma non lascerebbe mai la moglie perché la identifica con i confortevoli arredi del salotto, con il divano sformato dalle sue chiappe, che però non capirebbe mai con un'altra. Il moglione è questo tipo di uomo che fa della moglie l'alibi della sua pigrizia e della sua insincerità e che mente a tutti. Il primo dei moglioni è Zeus, nella mitologia greca, il Giove della mitologia latina. Delle sue gesta parla spesso Ovidio nel suo libro Le Metamorfosi. Questo nella traduzione bellissima di Massimo Bontempelli, questo è l'episodio di quando Giove si innamora di Io, la figlia del fiume Inaco. Giove aveva visto Io che tornava dal fiume paterno e le aveva detto: «O vergine degna di Giove, ritirati all'ombra di quei boschi profondi, ora che fa così caldo e il sole è al punto più alto. E non aver paura di ritrovarti sola tra covi di belve. Addentrati tranquilla nel folto, che sei protetta da un dio, e non da un deuccio qualunque, ma da me, che tengo nella grande mano lo scettro del cielo, da me, che scaglio i fulmini errabondi. Non mi fuggire». Essa, infatti, fuggiva. Il dio nascose la terra per un gran tratto sotto una fitta caligine, fermò la sua fuga e le rapì il pudore. Ma sua moglie è in agguato. In quel momento Giunone rivolse dall'alto lo sguardo e accortasi con stupore che in pieno giorno nebbie svolazzanti avevano fatto un buio notturno, capì che non erano nebbie di fiume e si guardò intorno per vedere dove fosse il marito, ben conoscendone le scappate e avendolo colto in flagrante tante volte. «O mi sbaglio o siamo tradite», si disse. E calata giù dall'alto del cielo, si posò sulla terra e ordinò alle nebbie di dileguarsi. Giove aveva presentito l'arrivo della consorte e aveva mutato la figura della figlia di Inaco in quella di una lustra giovenca. Anche giovenca, essa è bella. La figlia di Saturno elogia l'aspetto della vacca e, fingendo di non sapere, chiede anche chi sia e da dove venga. Giove le inventa che è nata dalla terra e Giunone gli chiede di regalargliela. Che fare? Sarebbe crudele consegnare l'amata. Non farlo sarebbe sospetto. Da un lato la vergogna consiglia di sì, dall'altro l'amore consiglia di no. E la vergogna stava quasi per essere vinta dall'amore, ma se a colei che era sua sorella e moglie avesse rifiutato la vacca, c'era il rischio che si capisse che non era una vacca. Così la dea ebbe in dono la rivale. Tramonta luna e noi vorrò città l'ultima scena, restammo mano a mano senza tenere coraggio a parlare. Ma non per questo smise di temere e stette in ansia che Giove gliela riportasse via di nascosto, perciò l'affidò ad Argo perché la sorvegliasse. Argo, che aveva il capo contornato di 100 occhi e anche se rivoltava le spalle, aveva sempre io sotto lo sguardo. Di giorno le permetteva di pascolare. Quando il sole si inabissava dietro la terra, la metteva al chiuso con un'indegna cavezza intorno al collo. Di fronde da alberi e di erba amara si pasceva l'infelice. E se poi voleva tendere verso Argo le braccia per supplicarlo, non aveva delle braccia da tendere, ma solo zampe. E quando tentava di lamentarsi, dalla bocca le uscivano muggiti e restava intimorita, spaventandosi del suono della propria voce. E venne alle rive, su cui tante volte aveva giocato, alle rive dell'Inaco, e come scorse nell'acqua il muso e le strane corna, si impaurì e si ritrasse sbigottita. Le naiadi e l'Inaco stesso ignoravano chi fosse. Ma essa seguiva il padre, seguiva le sorelle e permetteva che la toccassero e si metteva in mostra. Il vecchio Inaco colse delle erbe e gliele porse. Essa leccò le mani del padre, impresse baci sui palmi e si mise a lacrimare. E se fosse riuscita ad articolare parole, avrebbe invocato aiuto e rivelato il suo nome e la sua disavventura. Invece di parole, furono lettere da lei tracciate sulla sabbia col piede ad assolvere il triste compito di rivelare la trasformazione. «Che disgrazia!» esclamò Inaco, il padre, e aggrappandosi alle corna e al collo della giovenca bianca come neve, «Che disgrazia!» ripeté. «Sei tu la figliola mia, che ho cercato per tutto il mondo, minor dolore mi davi, non ritrovata che ritrovata. E io, che ignaro, ti preparavo le nozze e la fiaccolata nuziale, e speravo di avere un genero prima di tutto, e poi dei nipoti. Ora ti toccherà avere per marito un bue, e per figlio un vitello. E neppure posso por fine a così grandi dolori uccidendomi. Ho la sventura di essere un dio. La porta della morte mi è preclusa. E così il mio lutto durerà per tutta l'eternità. Fammo che lo ma il re degli dei non può sopportare che io, discendente di Foroneo, soffra tanto e chiama Mercurio, il figlio che gli fu partorito dalla Pleiade luminosa, e gli ordina di uccidere Argo. Un attimo e Mercurio ha già le ali ai piedi, in mano la magica bacchetta che infonde il sonno e il copricapo sui capelli. Così acconciato cala dalla rocca del padre Giove sulla terra. Lì si toglie il copricapo e depone le ali, conserva soltanto la verga e con questa, fingendosi un pastore, sospinge per campi fuori mano caprette che ruba mentre passa, si sa Mercurio è ladro, e suona una canzone su uno strumento fatto unendo le canne. Argo, il guardiano di Io agli ordini di Giunone, rimane affascinato da quei nuovi suoni. Mercurio si siede e, suonando canzoni sulle canne congiunte, tenta di addormentare con gli occhi vigilanti. Quando Mercurio vide che tutti gli occhi di Argo avevano ceduto, con la spada a forma di falce lo colpisce e lo uccide. Quando Giunone se ne accorge, ardendo d'ira, prontamente si sfoga facendo apparire dinanzi agli occhi e alla mente della rivale l'orribile Rinni, cacciando nel petto alla mucca un invisibile pungolo e facendola correre atterrita per tutto il mondo. E ormai non restava Dio che giungere anche a te, o Nilo, in quella corsa smisurata. Appena giunse, si buttò in ginocchio sulla sponda, rovesciò il collo all'indietro, levando, unica cosa che poteva, lo sguardo verso gli astri, con gemiti e lacrime e muggiti penosi, parve lamentarsi con Giove e pregarlo di porre fine alle sue sventure. E Giove getta le braccia al collo della sua consorte e la prega di mettere finalmente termine a questa punizione. «Per il futuro non temere», le dice. «Costei non ti darà mai più dispiaceri. Si guarda bene dal dire, sarò sempre fedele, perché lo sa. Come la dea si placa, Io riprende l'aspetto di una volta e torna come era prima. Cadono le setole del corpo. Le corna rientrano. Il cerchio dell'occhio si restringe. Si ritira il muso. Ricompaiono le braccia e le mani. E lo zoccolo si dissolve, rifluendo in 5 unghie. Nulla resta in lei della vacca, tranne il candore della figura». Felice di servirsi di 2 soli piedi, la ninfa si drizza ed esita a parlare per paura di muggire come una giovenca e timidamente riprova a usare la favella per qualche tempo perduta. Ora è una dea famosissima, venerata dalle folle, vestite di lino. La guardiana del faro. Cara Barbara, fra tante coppie disperate, vorrei dare un segnale di speranza. C'è anche qualcuno che sta ancora bene insieme dopo 26 anni. Mio marito è un uomo così romantico. Figurati che non si scorda mai un anniversario né un compleanno. Mi porta sempre i fiori o i cioccolatini, ma anche regali più importanti come un iPad che costa un occhio della testa. Un paio di volte mi è stato infedele, ma si è fatto sempre perdonare con grandi attenzioni. Per lui lasciai il fidanzato che avevo prima, che il romanticismo non sapeva nemmeno che fosse. Mai che si fosse ricordato una ricorrenza, mai che mi avesse offerto una cena a lume di candela. Milena. Cara Milena, grazie della confortante testimonianza. Però scusa se non leggo tutta la tua giaculatoria sulle felicità coniugali. Un po' perché, come dice Tolstoi all'inizio di Anna Karenina, pezzo citatissimo, le famiglie felici si somigliano tutte. E un po' perché, se no, arriviamo a dopodomani. Sai, Milena, per scrivere 6 pagine ci vuole una trama, se no non si arriva in fondo. Di tutta la tua lettera, la cosa che più mi interessa è l'uso improprio che tu fai della parola romantico. È una tale distorsione che tu mi inciti al sermone. Sarò pedante, per una volta sarò precisa. Allora, si usa romanticismo nel senso contrario al suo significato originario. Tu dici che tuo marito è romantico perché non si scorda gli anniversari, perché ti porta sempre i fiori, i lumi di candela. Ma guarda che questo non è il romanticismo. Io mi chiedo com'è possibile, per quale disavventura del linguaggio, questa parola abbia potuto degradarsi tanto, fino a significare sentimentalismo, negazione dell'amore, la sua formalizzazione. Ma un tipo così romantico sarebbe uno che ascolta le canzoni d'amore? Uno che ti regala i fiori, che ti copre dei cioccolatini abominevoli? O che magari, ecco, si ricorda il 14 febbraio della festa di San Valentino, che invece è l'anniversario di una strage. Insomma, cos'è il romanticismo? Milena, prendi il dizionario, aprilo alla parola romanticismo e ti dirà: un movimento letterario nato in opposizione all'illuminismo, che rivendica la passionalità accanto alla ragione, riscopre la dimensione del sentimento, dell'intuizione, della religione, dell'arte come espressione immediata della natura selvaggia, esempio le Alpi, il mare, meglio se in tempesta. Francesco De Sanctis, nella sua splendida storia della letteratura italiana, scrive del romanticismo: la naturalezza, la profondità, l'affetto furono qualità assai più stimate che ogni dignità ed eleganza. Dante, Shakespeare, Calderon, Ariosto divennero gli astri maggiori e con essi Omero e la Bibbia. Testi che non hanno niente a che fare con gli SMS prefabbricati o con le melenzaggini obbligate. Anzi, il romanticismo, cara Milena, era soprattutto una... Scusa questo tono da maestrina, ma troppo mi secca. Una battaglia contro tutte le regole. L'affermazione della passione a costo della vita. Era una febbrile fede nel rischio. Personaggi o persone, i romantici non badavano certo agli anniversari. Addentavano la vita con tutti i suoi terrori e se ne facevano spesso distruggere. Era durissimo, Milena, il romanticismo. Tu pensa, il giovane Werther del romanzo di Goethe mica perde tempo in convenevoli. Innamorato senza speranza di Carlotta, si spara una fucilata in bocca. Altro che San Valentino. Oppure pensa il romantico per eccellenza, Lord Byron. Ma Lord Byron si sarà mai ricordato di un compleanno? Lui, l'eroe zoppo, che sfida la sua infermità volando come un turbine a cavallo, nuotatore instancabile, capace di prodezze fisiche ai limiti del suicidio. Byron, quest'uomo spietato, che tutto travolge, amante della sorella, dei giovinetti, della libertà, che va a morire in Grecia, giovane, l'età pericolosa per i poeti, 36 anni. Purtroppo di febbri. E conscio del ridicolo, rimpiange assai di non essere morto in battaglia, ma questo gli tocca. Byron, crudele verso sua moglie, la quale capisce prestissimo che l'ha sposata soltanto per dimenticare l'indimenticabile sorella, Augusta. Crudele verso Claire, la donna che gli dà una figlia senza niente chiedere. E crudelissimo verso questa bambina, che farà morire senza averla rivista. Byron, che era velocissimo a piombare come un falco sulle donne o su un giovane che gli piacesse. No, Byron non badava ai compleanni. E figuriamoci se ci badava Robert Browning, poeta. Quando si innamorò, per lettera, che è il massimo dei rischi amorosi, come si sa, di Elizabeth Barrett, anche lei poetessa. Elizabeth era così malata che il padre, innamorato di lei, la teneva in una prigione amorosa e ferrea. Le diceva: tu stai male, stai male, stai male. La ammalava con le sue preoccupazioni e l'aveva condannata a non fare un passo fuori di casa. Diceva per la sua salute, in verità per tenersela stretta. E i medici, d'accordo con lui, avevano escluso che potesse uscire di casa, figuriamoci sposarsi. Da anni la trattavano come una moribonda. Da anni era una moribonda. Però lei e Robert Browning continuavano a scriversi e alla fine l'amore travolge tutto. Il 10 gennaio del 1845 comincia la loro corrispondenza e nel settembre dello stesso anno si erano già sposati in segreto. E appena il padre si distrasse, Robert e la rapì, scapparono insieme in Italia, poveri e senza appoggi. E vissero felici e contenti, non per 100 anni, ma per 16, che comunque un'immensità, viste le condizioni di lei, che migliorarono peraltro al punto che poté fare un figlio. Ma siete così voi, portatori di fiori, sempre col calendario in mano, attenti alle ricorrenze? Non siete così? Beh, allora dite sentimentali, dite melensi, non dite romantici. Voi portate abusivamente un nome che vi condannerebbe a ben altro comportamento. O poi non parliamo di quando quelle trasmissioni televisive che si definiscono romantiche, ne hanno fatte tante, dove gli innamorati vanno lì a gridare il loro amore e non sanno che quando una rete in TV ti amerò per sempre è già finita, violata la legge numero uno, il segreto. I romantici si sarebbero fatti ammazzare prima di confessare il nome dell'amata. Ora non è che io sia contraria a quell'omaggio squisito che è mandar fiori. È una gran cosa una rosa, se però stainianamente, se una rosa è una rosa, una rosa è una rosa, se rappresenta l'amore, allora è gradita per la sua illogicità. Non a caso poi, come racconti anche tu nella lettera, Milena, tuo marito più ti faceva le corna e più ti regalava i fiori. I traditori, quelli, non si lasciano scappare una ricorrenza. E lo notò bene Ingmar Bergman in questo film immortale che si chiamava Scene da un matrimonio, dove le tragedie della vita sono tutte contornate, bombardate, straziate dalla memoria maledetta dei compleanni e degli anniversari. Fiori, regali che li circondano senza scampo, riportandoli irreparabilmente all'ipocrisia. Parafrasando la poesia che Majakovskij scrisse quando morì suicida il poeta Sergei Yesenin: meglio morir di vodka che di noia, ti dico Milena, meglio morir d'amore che di noia. Secondo me lo zelo formale eccessivo è sempre sospetto. Cosa nasconde? Quali mancanze? Quali macchie? Quali tradimenti? Quale incapacità di un sentimento spontaneo? Siate romantici, non siate melensi. Voglio, tu penso, tu chiamo, tu vengo, tu sento. Sono nanna, ciò pienso che l'anno da stucchia non fanno più pace tua. Mentre io sto al faro, l'idea vera sta a Stromboli. Lei gran parte dell'anno si permette il grande lusso dell'assenza. Risponde pure poco al telefono, ma noi ci siamo messi di punta. Io da qui e Gloria Guerrera da terra l'abbiamo perseguitata perché abbiamo ricevuto molte richieste. Tutte la vogliono perché è la nostra vendicatrice, di tutte noi che non ne possiamo più del modo in cui i maschi in questo segmento di storia parlano delle donne. E così lei ha scritto questo libro per il Saggiatore, Piccoli Uomini, dove ricambia parlando lei dei maschi e devo dire che in fondo, per quanto li distrugga, li include nell'arte. Ed è molto divertente, molto profondo questo libro, una galleria di satiri coi tacchi, con le facce sfigurate dal bisturi, una galleria dell'ignoranza che, per quanto truce, è sempre comica. Comunque, insomma, l'abbiamo catturata per leggerci qualcuno dei suoi ritratti. Pronto, Lidia? Pronto. Senti, ci leggi qualche ritratto da piccoli uomini? Molto volentieri. Vi leggerò uno che sta sempre in mezzo, ancora non ce ne siamo liberati, e uno pensa sempre adesso sparirà, invece è sempre lì, ed è Emilio Fede. Vado. Vai. Vedere Emilio Fede insediato sul suo telegiornale con l'immancabile biondina pietrificata accanto, mentre cerca disperatamente una leggerezza di tono, un accesso privilegiato all'impervio regno dell'ironia, è la parte patetica della brutta commedia a cui stiamo assistendo da mesi, da anni, con una recente accelerazione in direzione del baratro. Fede è ricco e famoso, ma non è un uomo arguto, non è fine, non è spiritoso. Non ha un possesso della lingua italiana tale da potersi permettere di giocare con le parole una partita così difficile, difendere Berlusconi e se stesso da fastidiose evidenze. Mentre somministra alla ragazza di turno, vedi intercettazioni, consigli per l'uso della libido del padrone, è invece sul suo terreno. Il Basic Italian è sufficiente, la contenuta eccitazione adeguata, servendosi del medesimo registro potrebbe rassegnare in diretta dignitose dimissioni. Ci leggi Maroni, che è uno dei miei preferiti? Maroni ogni tanto mi sembra un po' ingeneroso, però forse bisogna anche imparare a essere ingenerosi. Ah, cioè, allora, ti pare ingeneroso il tuo ritratto? Sì, il mio ritratto a di me sembra Bobo Maroni. Generosissimo. Se Bobo Maroni fosse una donna, la sentenza sarebbe inappellabile, bruttina e stagionata. Poche categorie sono più sofferenti. Meglio essere decisamente racchie, quelle che gli uomini chiamano cozze, centro-sud, o cessi, universale. La bruttina ha in genere una faccetta risicata, occhi piccoli, carnagione incerta, né grassa né magra, né alta né bassa. Non ha difetti eclatanti, né piccoli pregi a illuminare il poco di cui dispone. Sembra messa insieme con scampoli di tessuti non troppo costosi. Ci si può andare in vacanza, ma quando la incontri, due giorni dopo il rientro, non la riconosci. Il PDL, così attento al personale femminile del suo governo, non la farebbe mai ministro. Chissà, è di rappresentanza la ministra. Il ministro, no. Infatti sono quasi tutti del 55, anche Bobo. E privi di pettorali tali da poter competere con le tette delle pari opportunità, sul piano dell'immagine fanno quello che vogliono. Maroni, per esempio, è scomparso da YouTube. Dismorfismo? La guardiana del faro. Quassù dall'aria fresca del faro io vorrei mandare un saluto a Marco Pannella, che è da molto tempo in sciopero della fame e della sete per protestare sulla situazione delle carceri. La rivolta conta nella durata. La canzone di Beatles, Mi amerai quando avrò 64 anni, vuol dire un po' questo, vuol dire che la rivolta conta nella durata. E Marco Pannella, che ha 80 anni, continua a lavorare per tutti noi, a spendere il suo corpo, la sua salute, la cosa di cui anche i più generosi sono gelosi e sono avari, per attirare l'attenzione su questo scandalo delle carceri. Pannella e Mabonino, i radicali, sono stati e sono la grande scuola di moralità degli ultimi decenni. Perché dove tutti si ingozzano, loro digiunano. Dove tutti uccidono, loro rischiano la pelle. Dove tutti tacciano, loro parlano. Dove tutti parlano, loro fanno. E dove tutti rubano, loro spendono ogni risorsa. Anche, come dicevo poco fa, il loro corpo. Marco Pannella è un maestro senza eredi maschi, ma per fortuna ci sono le donne. C'è stata Adelaide Aglietta, c'è Emma Bonino, che sono le sue vere allieve, sue e di Adele Faccio. Emma Bonino e Pannella sanno che la passione non può essere né demandata né tradotta. E con questo saluto approfitto per leggere uno scritto che ho avuto da Carmelo Musumeci, questo amico che sta scontando l'ergastolo ostativo, e ne abbiamo parlato quando si è laureato in carcere. E quando, il giorno in cui si è laureato, hanno permesso a Carmelo Musumeci di uscire per 11 ore dal carcere, e dopo tantissimo tempo ha potuto rivedere la moglie, i figli, Nadia Bizzotto, che lui chiama il suo diavolo custode, la ragazza che lo segue da molto tempo, e ha scritto 11 ore d'amore di un uomo ombra. chiuso occhio tutta la notte. Penso che dalla gioia non riuscirò a rimanere vivo fino al giorno del permesso. Spero che il mio cuore non smetta di battere proprio adesso, che è un passo dalla felicità. Luna, per 20 anni ti ho visto solo tramite un pezzo di cielo tra le sbarre della mia cella e nient'altro. Luna, fra pochi giorni ti vedrò a cielo aperto. Amo la libertà da far paura e ho paura di non farcela. Ho paura di morire di felicità. Comincia con un paragrafo che si chiama L'attesa, dove lui sta per uscire dal carcere e ha questo dialogo con il carcere, di cui è fatto un personaggio, si chiama l'assassino dei sogni. L'assassino dei sogni mi chiama, Musumeci, è ora, dopo tanti anni iniziano le ore dell'amore. Esco dalla cella. L'assassino dei sogni mi sussurra all'orecchio, dove credi di andare? Arrivo al primo cancello, esco dalla sezione. Tanto questa sera ti ingoierò di nuovo. Scendo le scale, secondo cancello. Se hai il coraggio di ritornare. Terzo cancello, te la farò pagare. Quarto cancello, pensaci bene, perché poi ti farò soffrire di più. Quinto cancello, se ritorni, te ne pentirai. Sesto cancello, perché questa è la tua ultima occasione che hai di morire da uomo libero. Settimo cancello, ti conviene approfittarne. Ottavo cancello, impiccati fuori. Nono cancello, al primo albero che incontri. Decimo cancello, se non lo fai, tra un po' di tempo sarai costretto a farlo alle sbarre della tua cella. Undicesimo cancello. Ricordati che dalla sofferenza del carcere non puoi scappare e non puoi cancellarla. Ecco l'ultimo cancello. E penso che i cancelli che ho varcato sono 11, come le ore di libertà che mi hanno dato. Abbraccia Nadia, abbraccia la figlia. La stringo in un abbraccio atteso da 20 anni. Rimaniamo in silenzio. Lei non piange. Le ho insegnato a non piangere, ma so che lo fa di nascosto. L'ultima volta che l'ho vista piangere è stata quando ero sottoposto al regime di tortura del 41 bis. Quando lei era ancora una bambina, lei non mi poteva toccare. Io non la potevo accarezzare. Lei non mi poteva baciare. Mi viene da piangere e piango. Tanto le mie lacrime non si vedono. Sono fatte di ombra. A un tratto il mio angelo grida, cioè sempre Nadia. Presto in macchina, a mezzogiorno ci aspettano all'università per discutere la tesi. Escono, sono nel piazzale dell'università. Nel frattempo il mio cuore mi ricorda che manca qualcuno. I miei occhi la cercano, la trovano, è la compagna del mio cuore. Sorrido, è ancora bellissima. E penso che forse in libertà si invecchia più lentamente che dentro. Quando si tratta di lei, il mio cuore è più furbo di me. Questa volta è lui che mi fa lo sgambetto e arriva da lei prima di me, la bacia e le sussurra «Grazie, amore, per tutti i giorni e gli anni che hai aspettato». Il suo cuore risponde «Non c'è stato bisogno di aspettarti, perché tu non sei mai andato via. Hai sempre abitato dentro di me. Grazie per avermi tenuto nel tuo cuore. È stato facile amarti. Impossibile è stato smettere». Poi si laurea e il senso della sua tesi è questo: l'ergastolo normale è una pena inutile, crudele e disumana. Quello stativo è una tortura giuridica, ricattatoria, delinquenziale e criminale. Ed è più, dice Carmelo, più grave della pena di morte, perché si muore molto, ma molto lentamente. Il pomeriggio rimango un po' solo con la mia compagna. Le mie mani non la toccano e non la accarezzano da anni. I suoi baci sono buonissimi. Non me li ricordavo più così buoni. Ne faccio una scorpacciata. Poi, dopo le 11 ore, arriva il momento che è stato sempre presente in questa giornata, ovvero il momento del ritorno. E allora, di nuovo, c'è questo corpo a corpo che non finisce mai con l'assassino dei sogni, ovvero col carcere. Inizio a sentire la voce dell'assassino dei sogni. Guarda chi si rivede. Non c'è più il sole di questa mattina. Non mi hai dato retta. È buio. Sei ritornato. Buio nero. Bentornato. Guardo il cielo. Hai perso una buona occasione. La luna è quasi rotonda, ne manca solo uno spicchio. non ne avrai altre. Peggio per te. Ti mangerò anche i tuoi ultimi sogni. Gli ultimi sono anche i più buoni. Lo guardo. Sei solo un'ombra. Ci guardiamo. Ricordatelo. All'improvviso mi viene in mente che io riuscirò a distruggerlo. E non solo per me, ma anche per tutti gli altri. Non riuscirai mai a scapparmi. Non sono ancora troppo vecchio. Levatelo dalla testa. Ce la posso fare? Non c'è mai riuscito nessuno. Il cortile deserto. Rifà di nuovo tutti i cancelli. Undicesimo cancello. Ora sono di nuovo solo. Io e l'assassino dei sogni. Entro nella mia cella. Non mi spoglio. Non ce la faccio. Mi butto vestito nella branda. Finalmente posso piangere. Dentro le lacrime non si vedono. Sono fatte di ombra, pure quelle. Grazie per averci mandato questo scritto, Carmelo Musumeci. E per sempre, grazie a Marco Pannella. Via di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. Puoi lasciare il tuo messaggio nella bottiglia all'828 1111 o alla mail laguardiana@radio24.it. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti. A cura di Gloria Guerrera.